Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ancora una giornata difficile per i mercati. Milano è arrivata a perdere oltre il 2%, adesso cede quasi un punto percentuale, giù tutte le banche, hanno raggiunto quasi il 10% di calo Banco Popolare e Popolare di Milano. Juncker ringrazia l'Italia per la solidarietà sui migranti, quindi segnali di schiarita con l'Europa. Padoan si rivolge a Bruxelles sulla flessibilità, l'incertezza pesa, si decida presto. Cambia il paniere dei beni più acquistati. Entrano i leggings da bambina, i tatuaggi, i servizi integrati con TV, telefono e internet. Terrorismo in Libia, parla Radio 24 il ministro della difesa Pinotti. Francia e Inghilterra non si muoveranno da sole come nel 2011. Giorni intensi per Roma, ve lo ha raccontato anche Gianluca Nicoletti poco fa. È un piano di sicurezza simile a quello usato per i capi di Stato. Arriva nella capitale la salma di Padre Pio. Turno infrasettimanale di campionato, dopo l'anticipo di ieri che ha visto la Roma vittoriosa, tocca a Lazio e Napoli, la Juventus contro il Genoa. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. È ancora una giornata, come già vi dicevamo nei titoli, piuttosto difficile per i mercati, con grandissima volatilità a quanto ci sembra di vedere, e comunque indici e andamento generale negativo. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Dopo un gennaio da dimenticare, non è che i presupposti di febbraio siano più incoraggianti rispetto al mese scorso. Anche oggi le cose vanno male, anche se in realtà il copione che leggiamo adesso è ben diverso rispetto a quello di cui abbiamo dato lettura intorno alle 12, quando Milano era di gran lunga ancora una volta la peggior piazza d'Europa e perdeva ben 2 punti percentuali abbondanti. Adesso è risalito un po' la china, meno 0,9%. In realtà poco fa le cose andavano anche meglio, è arrivata a perdere circa mezzo punto, e comunque insomma l'incertezza ancora è forte. Londra meno 0,53%, Francoforte meno un punto, Parigi la migliore di tutte perde lo 0,17%, oggi sostenuta dal settore del lusso dopo i conti di LVMH, Louis Vuitton, che aiutano peraltro anche Salvatore Ferragamo a Piazza Affari, il miglior titolo in rialzo del 3,69%. Ma il tema è sempre quello, Simone, a Piazza Affari, il tema bancario. Ci si sono messe anche le notizie del Sole 24 Ore questa mattina a zavorrare i titoli, Banco Popolare e BPM in particolar modo. La fusione sembra meno imminente del previsto, dopo che sembrava essere accelerata nei giorni scorsi la trattativa fra le due banche. Adesso in realtà le trattative sarebbero ritornate in stallo, secondo quanto raccontava stamattina proprio il nostro quotidiano. Ora il titolo del Banco Popolare perde quasi 9 punti, Monte dei Paschi meno 6, UbiBanca meno 5,60, Pop Milano meno 4,87, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,64. È tutto il mercato che perde, perché naturalmente tutti i titoli del settore sono interessati a queste operazioni di consolidamento. Il peggiore però ancora una volta Saipem, AXA, che sono in realtà i diritti di opzione per l'aumento di capitale di AXA, che vanno letteralmente sull'otto volante, meno 27%, e portano in calo anche i titoli delle azioni ordinarie. Colpa anche del petrolio, che però dopo i $29 di ieri è risalito tra i 30 e i 33, quindi montagne russe su tutti i fronti, Simone, anche stamattina. E grazie a Deborah Rosciani per questo aggiornamento, vedremo di approfondire più avanti alle 13.15 e poi alle 13.30 l'aggiornamento con i colleghi di Radio Corri, il Sole 24 Ore. Veniamo alle polemiche di queste ore tra l'Italia e l'Europa, che proseguono. Qualche segnale di schiarita sembra essere arrivato questa mattina dal Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. Ci aggiorna su questo Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Confronto tra Roma e Bruxelles che passa oggi per la sessione plenaria del Parlamento europeo. Intervento allora del Presidente della Commissione Juncker. Schengen e conti pubblici, gli argomenti più attesi. Sul primo tema, dice Juncker, c'è poco da essere orgogliosi. Sui profughi si è detto tutto, ma molto resta ancora da fare. La crisi dei migranti si è trasformata in una crisi di solidarietà all'interno dell'Europa. Ma sentiamo parole e tono usato da Juncker. Commençons par notre gestion de la crise des réfugiés, à propos de laquelle tout a déjà été dit. Oggi ci vorrebbe un nuovo e forte impegno comune, le accuse reciproche, aggiunge Juncker, non portano a nulla, esiste una responsabilità comune e tutti sono chiamati a rispettare le regole. Da qui Simone, in riferimento al nostro paese, i 3 miliardi a favore della Turchia devono essere messi a disposizione, tutti dobbiamo rispettare i nostri impegni, anche il governo italiano nel frattempo si è detto disponibile. È un fatto positivo che riconosco, dice Juncker. Altro fronte è quello dei conti pubblici, il braccio di ferro che coinvolge anche l'Italia alla vigilia delle previsioni economiche della Commissione europea. Oggi Juncker chiarisce, la Commissione svolgerà il suo ruolo senza seguire stupide politiche di austerità, le flessibilità sono ampiamente sufficienti da permettere bilanci che comprendano il rispetto delle regole. È tutto, linea allo studio. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta. E questa mattina un incontro tra il ministro dell'economia Piercarlo Padoan e il suo omologo inglese Osborne, nel quale Padoan ha trovato l'occasione per tornare a parlare anche di questi temi. Ha seguito questo incontro Alessandra Schepisi, che è in collegamento con noi. Alessandra. Sì, buongiorno. Non ci inventiamo le regole di flessibilità, ci sono e dunque abbiamo tutto il diritto di chiederla, piuttosto l'Unione Europea sciolga la riserva evitando un'incertezza che non aiuta la crescita. Il ministro dell'Economia Padoan torna dunque sull'acceso confronto tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità dei conti pubblici, rivendicando gli sforzi italiani, e lo fa in questo convegno organizzato dall'Aspen. Allora sentiamo la sua voce. L'Italia chiede entro i margini previsti dalla Commissione di utilizzare questi margini, quindi non c'è nulla che non sia compatibile con quelle regole, non chiede nuova flessibilità come ho visto dire da autorevoli esponenti italiani e europei, non stiamo chiedendo nulla di nuovo, tutto ciò è incluso nella legge di stabilità che è stata approvata dal Parlamento. Per gli anni successivi continua il processo di consolidamento, il deficit si riduce, il debito comincia a scendere da quest'anno e quindi c'è una compatibilità assoluta tra politiche di bilancio e politiche di riforme. E Padoan torna a parlare anche di banche, sollecitando il sistema bancario ad approfittare di un'Unione Europea più forte ed integrata. La Capital Market Union, dice, è una grande opportunità per il nostro paese e per il nostro sistema bancario. Ma al centro del convegno la questione del referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, le proposte arrivate ieri dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a Londra per ridisegnare un nuovo rapporto tra Regno Unito e Unione Europea. Per Padoan è un'occasione per rafforzare l'Europa laddove ci sono differenze, dice, ci siano modi per gestirle, così anche il cancelliere dello scacchiere Osborne. Le proposte avanzate ieri dal Consiglio europeo rafforzano l'Unione europea, rafforzano la posizione britannica nell'Unione e rafforzano il consenso che i britannici hanno verso l'Europa. E da Roma è tutto. E grazie anche ad Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. L'esercito iracheno, è notizia di questa mattina, ha iniziato dei lavori di costruzione di un muro attorno a Baghdad che dovrà prevenire l'infiltrazione nella capitale di terroristi e sospetti, in particolare legati all'ISIS. Lo ha reso noto il comandante del distretto militare, il generale Abdul Amir al-Shammari. In questa settimana intanto dovrebbe arrivare, nel corso di questa settimana, una parola definitiva dalla Libia sulla formazione del nuovo governo, un fatto che potrebbe preludere all'intervento militare di una serie di paesi, tra cui forse anche il nostro. Sentiamo il ministro della difesa Roberta Pinotti, intervenuta questa mattina a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli. Lei esclude che Francia e Inghilterra si possono muovere in autonomia come è successo nel 2011, perché poi là in realtà loro sono partiti? Sì, io lo escludo, anche perché abbiamo fatto recentemente il 20 gennaio una riunione e erano presenti i paesi europei più impegnati nella coalizione, c'era il Carter per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'era Le Drian, che sì, quindi lo esclude, insomma. C'ero io, l'inglese, l'olandese e l'Australia. Sì. La relazione sulla Libia è stata affidata a me come ministro italiano, sì. Ed un punto che anche il punto che ha ribadito Fabiuso, ma anche Le Drian nella sua intervista, è che si agirà in modo coordinato, quindi lo esclude l'Italia, il ruolo guida. Così dunque Roberta Pinotti, ministro della difesa. L'intervista completa ovviamente la potete trovare sul nostro sito www.radio24.it. Passiamo a parlare dell'Istat, che oggi, come fa periodicamente, ha aggiornato il paniere dei beni più acquistati. Un lieve rialzo è solo su base annua. A gennaio l'indice dei prezzi al consumo diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente, ma aumenta dello 0,3% rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'aumento su base annua si spiega con l'attenuarsi della flessione dei beni energetici. Fin qui il dato. Come ogni anno, però, puntuale, l'Ufficio di Statistica aggiorna l'elenco dei prodotti attraverso i quali calcola la variazione dei prezzi. Un elenco che, depurato delle voci imprescindibili come pane, latte, frutta e verdura, racconta come cambiamo, quali cose ci piacciono e quali non ci piacciono più, di quali oggetti non possiamo più fare a meno e quali invece abbiamo ormai dimenticato. Quest'anno nel paniere sono entrati servizi integrati TV, internet e voce, forse un po' in ritardo rispetto a quanto è già accaduto nelle nostre case, ma ci vuole tempo per verificare che certe scelte abbiano seguito. Entrano anche le bevande vegetali, il pantalone corto uomo, i leggings bambina, le lampadine LED, i panni cattura polvere, l'alloggio universitario e il tatuaggio, anche in questo caso forse con un po' di ritardo rispetto a ciò che si vede da anni sulle spiagge. Esce invece il prodotto cuccette e vagoni letto. Viaggiare dormendo in treno non piace e non conviene più. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alle vicende che riguardano Zika, questo virus del quale, come sapete, da qualche settimana si parla, che è trasmesso da un particolare tipo di zanzara che potrebbe comportare dei rischi, anche se le prove effettive non sono ancora arrivate, che potrebbe comportare dei rischi per le donne incinta, potrebbe generare della microcefalia appunto nei bambini. Ebbene, c'è una prova a quanto pare del primo caso di contagio sessuale negli Stati Uniti, mentre ovviamente i grandi problemi arrivano dal Brasile. Un punto con la nostra Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato d'emergenza di salute pubblica mondiale per Zika, la forma influenzale che, come dicevi, viene trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti e si presume provochi malformazioni cerebrali nel feto, questo virus continua a avanzare. Le autorità sanitarie di Dallas in Texas hanno reso noto che un paziente è il primo, è stato contagiato non attraverso una zanzara questa volta, ma dopo aver avuto un rapporto sessuale con una persona infetta che tornava dal Venezuela. Prima del caso segnalato a Dallas, quelli in Europa e in America del Nord riguardavano invece solo persone rientrate dal Sud America. Nel frattempo, mentre in Uruguay si riuniscono i ministri della sanità del Mercosur, il mercato comune del continente sudamericano, per valutare la situazione, ieri il Brasile ha diffuso i dati riguardanti le conseguenze del virus sui feti. Tra ottobre 2015 e gennaio 2016 sono stati diagnosticati 404 casi di microcefalia e sono stati segnalati 1,5 milioni di casi di influenza da Zika. L'OMS sconsiglia alle donne incinte di venire in Brasile, come dicevi anche tu, per le Olimpiadi del 2016, anche se si svolgeranno nel periodo invernale. È danneggiato dall'epidemia anche il carnevale, infatti in 11 città brasiliane, di cui 9 nello stato di San Paolo e 2 nello stato di Paraná, si è deciso di usare le risorse economiche pubbliche per la lotta contro la zanzara anziché per le sfilate del carnevale. Ieri sera la presidente del Brasile Dilma Rousseff, nel suo discorso al congresso in occasione della cerimonia solenne d'apertura dell'anno legislativo, è stata acclamata quando ha citato l'impegno del governo nella lotta contro il virus Zika. Sentiamola. Non faltarão recursos para que possamos reverter a epidemia do Zika virus. Il virus Zika, ha detto la Rousseff, è stato al centro del colloquio anche col presidente americano Barack Obama. Entrambi si sono detti d'accordo sull'importanza di sforzi per la ricerca e per accelerare lo sviluppo di vaccini migliori e di altre tecnologie per controllare il virus. Ed è tutto. E grazie ad Adriana Fracchia per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca italiana. Altre 10 persone sono indagate per le morti sospette avvenute all'ospedale di Piario, e siamo nella Bergamasca. Si tratta di medici e infermieri del reparto di medicina della stessa struttura, tutti accusati di concorso colposo in omicidio preterintenzionale. I nuovi indagati si aggiungono all'infermiera Anna Rinelli, che è accusata all'inizio dell'indagine di aver somministrato dosi non prescritte di Valium ai pazienti, causando una serie di vittime. E di questa mattina la scoperta di una nuova truffa nel settore dell'olio. Colorate e tossiche solo per renderle appetibili. Oltre 10.000 kg di olive da tavola colorate pericolose per la salute sono state sequestrate in Puglia dagli agenti della forestale nel corso di un controllo a tappeto. 18 imprenditori denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive e produzione di alimenti con aggiunta di additivi chimici non autorizzati dalla legge. Per colorare le olive infatti usavano sia la clorofilla aramata, sostanza alimentare classificata dall'Unione Europea come colorante E141 e vietata dalla legislazione Federazione Nazionale ed Europea, sia il solfato di rame nocivo alla salute umana. E in più da stamattina è in corso l'operazione Mamma Mia delle Fiamme Gialle. Luca Veglia, direttore Area Antifrode, Ministero Politiche Agricole, Ispettorato Centrale. Molti operatori disonesti si approvvigionano di olio comunitario che costa molto meno e lo rivende come italiano, guadagnando sulle transazioni. Quindi non è una questione di accanimento. Negli ultimi due anni noi abbiamo sequestrato circa 10 milioni di euro di prodotto irregolare perché la criminalità fa affari su queste situazioni. In Puglia, Calabria e Umbria bloccate oltre 2.000 tonnellate di olio extravergine di oliva spacciato per italiano per un valore di 13 milioni di euro. 8 gli indagati accusati di frode agroalimentare e di reati fiscali. Scoperto infatti anche un giro di fatture false per un commercio di 2.000 tonnellate di finto olio italiano. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E di questo più avanti parleremo con David Granieri, che è il presidente di Unaprol, l'associazione appunto dei produttori di olio. Intanto però vogliamo occuparci di calcio, turno infrasettimanale. L'anticipo di ieri ha visto vincere la Roma, questa sera il Napoli alla prova della Lazio e la Juventus con il Genoa, se non erro, Carlo Genta. Tutto giusto, Simone. La Roma ieri sera ha aperto questo turno infrasettimanale vincendo 2-0 con il Sassuolo, che peraltro ha sbagliato un rigore con il punteggio sull'1-0 per i giallorossi. Poi nel finale il gol di Shaarawy che ha rispedito la Roma, almeno al momento, alla pari con l'Inter, dietro ovviamente Napoli e Juventus, e la Fiorentina, che questa sera riceve il Carpi. Comunque la prova più importante sarà il confronto a distanza tra Napoli e Juventus, certamente turno più impegnativo per il Napoli, che gioca all'Olimpico contro la Lazio, anche se una Lazio con diverse assenze. La Juventus, che ha perso di nuovo Khedira, che salterà le prossime tre settimane, quindi compreso l'impegno di Champions League con il Bayern di Monaco, riceve il Genoa. Poi fari puntati anche sull'Inter dopo il derby perso, dopo le polemiche. Inter che ha a distanza di tre giorni una doppia prova con il Verona, perché stasera riceve il Chievo e domenica andrà a giocare a Verona contro l'Hellas. Si gioca alle 20.45 su tutti i campi, l'unico anticipo alle 18.30 è Frosinone-Bologna. C'è il Milan anche, che si è rilanciato e che questa sera va a Palermo per scoprire, come dice Mihajlovic, se è gazzosa o champagne. E vedremo appunto se sarà gazzoso o champagne, ne parlerete ovviamente di tutti i convocati a partire dalle 14. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade nella seconda parte della trasmissione. Andremo a parlare innanzitutto di mercati, di questi due giorni di turbolenza, poi parleremo di questa nuova truffa nel mondo dell'olio e poi più avanti ci occuperemo di questo arrivo della salma di Padre Pio a Roma, che sta creando ovviamente grandi aspettative da una parte e anche grande confusione per la città dall'altra. Come si diceva, il questore ha predisposto un piano che è lo stesso, il piano quantomeno di protezione della teca che contiene la salma di Padre Pio, simile a quello utilizzato per le visite dei capi di Stato. Il traffico a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli, partendo da una notizia appena battuta dalle agenzie: l'Italia ha dato il suo ok all'accordo sui 3 miliardi per i profughi in Turchia, da dare alla Turchia nel corso della riunione degli ambasciatori dei 28 paesi europei a Bruxelles. In una dichiarazione allegata alla conferma che l'Italia quindi ha aderito a questa proposta, il nostro paese si attende che la Commissione europea usi un approccio coerente, non prendendo in considerazione ai fini del calcolo del deficit l'intero dei costi sostenuti dall'Italia dall'inizio della crisi in Libia, e quindi parliamo di appunto dei costi sostenuti praticamente dal 2011, almeno da quello che supponiamo da questa dichiarazione. È ancora una giornata piuttosto difficile per i mercati, in questo momento non particolarmente pesante, nel senso che il calo è dello 0,93% su Milano, ma Milano è arrivata a perdere il 2%, molto difficile la situazione soprattutto per i bancari. In Monte dei Paschi c'è del 5,21%, Banco Popolare l'8,6%, UbiBanca il 6,04%, ne parliamo tra un attimo. Cambia il paniere dei beni più acquistati, entrano i leggings da bambina, i tatuaggi, i servizi integrati con TV, telefono e internet. Su terrorismo in Libia parla Radio 24 il ministro della difesa Pinotti. Francia e Inghilterra non si muoveranno da sole come nel 2011. E siamo dunque a fare un punto su quello che sta succedendo sui mercati, da ieri che è stata una giornata veramente pessima a quella di oggi, che possiamo definire quantomeno molto volatile. Come si diceva, Milano è arrivata a perdere oltre 2 punti percentuali, adesso perde 1 punto percentuale, insomma è una situazione piuttosto complicata. Abbiamo in studio con noi Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Maximilian, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te e agli ascoltatori. A cosa dobbiamo queste forti tensioni che vediamo in queste ore? Ti chiederei prima di tutto a livello generale, perché insomma quello italiano comprende anche la questione delle banche evidentemente, però a livello generale. Beh, hai fatto bene a sottolinearlo, tu stai parlando da ieri, in realtà è da inizio anno che vediamo forti tensioni sui mercati azionari e in generale sui mercati finanziari a livello mondiale. Proprio oggi appunto il quotidiano Sole 24 Ore ricordava che sono circa 4.000 i miliardi di euro bruciati, per così dire, dalle borse di tutto il mondo da inizio anno, 80 miliardi soltanto a Piazza Affari. Sono due i temi insomma che si incrociano, c'è cioè un tema globale che di crisi appunto di borse, di mercati finanziari dovute a un timore di un rallentamento dell'economia globale e anche ai cali molto pronunciati del prezzo del petrolio. Non è un mistero che in queste ultime settimane le borse si muovono assolutamente in senso contrario con il petrolio. C'è stato un forte rimbalzo la scorsa settimana del greggio quando si parlava di un accordo tra OPEC e Russia per ridurre le quote di produzione. Ecco, questo rimbalzo è stato quasi completamente rimangiato in questi ultimi 2 giorni e non è un caso che in questi ultimi 2 giorni vediamo le borse di tutto il mondo che stanno scendendo. A questo proposito oggi occorrerà fare, oggi pomeriggio, un'attenzione particolare ai dati settimanali sulle scorte di produzione degli Stati Uniti, che in genere riescono a muovere abbastanza il mercato. Vedremo cosa succederà dunque oggi pomeriggio sulla base di questi dati. Intanto oggi il petrolio è in parziale recupero, ma da dire che ieri è sceso sotto i 30 dollari al barile. Per quanto riguarda l'Italia, nell'occhio del ciclone continuano a rimanere le banche, Maximilian. Beh sì, su questo si innesta un tema specifico che è quello italiano, che riguarda appunto in particolare le banche. Se ne è fatto un gran parlare in questi giorni, insomma i problemi delle sofferenze, delle enormi ammontari sofferenze, cioè i crediti di difficile esigibilità che le banche italiane hanno. È un ammontare molto pesante, un fardello pesante che si portano dietro ormai da molti anni e che va crescendo per via della crisi finanziaria, insomma della crisi economica e finanziaria, che mette in difficoltà le aziende che non possono rendere alle banche il denaro, e questo denaro le banche poi non lo possono rimettere in circolo. Insomma, sono 200 miliardi, è un problema generale che si sta cercando di risolvere in maniera con una soluzione generale. Si parlava tanto di bad bank, non è arrivata questa bad bank, cioè una banca tra virgolette cattiva in cui mettere le sofferenze che non si possono più smobilizzare, per dar modo di creare una banca buona a fianco che può cominciare a ridare credito alle aziende e alle famiglie. Non è arrivata questa soluzione, è arrivata una soluzione un po' di compromesso. Si parla appunto di garanzie dello Stato per smobilizzare questi crediti, però è ancora tutto, non vorrei dire in alto mare, però insomma è ancora tutto molto da definire, i dettagli di anche, come funzionerà. E anche immagino i tempi evidentemente, Maximilian, perché la soluzione prevede una serie di piccole, di singole bad bank per così dire, costituite all'interno degli stessi istituti di credito, con garanzie dello Stato solamente per i crediti più sicuri, per così dire, no? Esatto, per renderla più facile, più semplice possibile. Il mercato probabilmente si aspettava una soluzione un pochino più energica e sperava di veder risolti già fin da subito alcuni dubbi sulle metodologie. Questa incertezza sta pesando sulle banche italiane, e poi ci sono altri temi che vanno avanti sulle banche italiane come l'integrazione. Certo, e oggi non è un caso che vediamo tra i peggiori BPM, Banco Popolare, tu lo stavi ricordando, sì, e UBI, che sono al centro di queste voci che si chiamano comunemente risico finanziario. Oggi si parla, i rumor sono di una frenata di questo processo aggregativo, e non è un caso appunto che non è tanto Montepaschi, una delle banche più nell'occhio del ciclone, ma queste altre banche che tra l'altro avevano corso parecchio proprio sull'ipotesi appunto di un'aggregazione. Mi riferisco in particolare a Banco Popolare e Popolare di Milano. Grazie a Maximilian Cellino del Sole 24 Ore per questo aiuto a chiarire che cosa sta succedendo in queste ore. David Granieri è presidente di Unaprol, l'associazione che raccoglie i produttori di olio. Buongiorno e benvenuto, Granieri. Buongiorno. Allora, anche oggi dico, perché non è il primo caso, evidentemente, abbiamo registrato una truffa nel settore dell'olio. La cosa importante da ricordare qua, mi sembra una, che nella fattispecie sono state scoperte queste 2000 tonnellate di olio falso made in Italy. La cosa importante, mi sembra, che possiamo ricordare innanzitutto, è che non è pericoloso, perché è olio greco o spagnolo spacciato come italiano, ma insomma non è adulterato. È certo che è un caso interessante e non è il primo quest'anno, Granieri. No, assolutamente, questo è l'ennesimo di una serie che certifica il fatto che il brand di italianità è un brand che funziona commercialmente, è un brand che crea appeal rispetto ai consumatori. In realtà, facendo queste cose, si dimostra l'ennesima volta che da una parte il danno, che il valore di questo prodotto è di circa 13 milioni di euro, da una parte il danno economico ai produttori e dall'altra l'inganno ai consumatori, che sono convinti di comprare olio italiano, che ricordo a tutti è sicuramente il prodotto, è l'olio più controllato al mondo, ma contemporaneamente la frode sta ad indicare che poi così non è. E che poi vi danneggia tu. Ci vogliono controlli più intensi, secondo lei, Granieri? Ma guardi, noi abbiamo in Italia abbiamo 9 enti che diciamo verificano continuamente il sistema oleario. Pure troppi per voi produttori, immagino, no? Beh, guardi, per noi è, diciamo, è un onere burocratico, ma se questo serve per difendere la nostra dignità di imprese, va benissimo così e siamo contentissimi del lavoro. Se abbiamo questo strumento, infatti la frode viene scoperta da un'iniziativa dell'ICQRF, quindi che ha a disposizione uno strumento che si chiama SIAN, che è uno strumento importantissimo, sì, che solo l'Italia ha. Stiamo cercando di estenderla anche agli altri a livello europeo, perché chiaramente per un sistema di dignità e di trasparenza ci vogliono le regole chiare. Grazie David Granieri, presidente di Unaprol, e saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il giudice Bruno Fasciana di Palermo. Buongiorno dottor Fasciana e benvenuto. Buongiorno. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei guidava, come dire, il collegio che ha deciso sul caso che sta dominando un po', con tra tante battute e ironie, alcune pagine dei quotidiani oggi. La vicenda qual è? Un direttore o ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Palermo 1, accusato di aver molestato due impiegate del suo ufficio, a una diede una pacca sul sedere, all'altra mise il dito sul bottoncino della camicetta e le sfiorò la zona genitale. Ebbene, questa persona è stata assolta dall'accusa di molestie sessuali. Leggiamo dalla sentenza, da quello che viene riportato dai giornali della sentenza, perché è stato un segno di immaturità. Allora, forse semplifichiamo noi un po' troppo, noi giornalisti. Ci spiega, Fasciana, che cosa c'è dietro questa decisione? E allora, io voglio premettere però che intervengo esclusivamente perché sono state scritte delle falsità al riguardo su quotidiani online, e a queste pubblicazioni sono seguiti anche commenti molto pesanti di soggetti che appunto seguono questi quotidiani, soprattutto perché questa è una cosa un po' grave, perché già si sta verificando, ci sono stati alcuni che hanno invitato a commettere atti di stalking nei confronti dei giudici nel profilo Facebook per vendetta. No, non il suo, immagino, ma quello della... No, anche il mio. Anche il suo. E sta già avvenendo? Sta già avvenendo. E poi voglio anche dire che intervengo perché nel mio ruolo di presidente ho l'obbligo morale di difendere i miei giudici. A questo punto, perché solitamente non lo faccio, in quanto ritengo che un giudice debba parlare con le sentenze, con la motivazione delle... con la sentenza. Però, allora, ci spiega perché questo signore è stato assolto? La sentenza è stata sicuramente trasfigurata. E sono stati estratti soltanto alcune frasi senza inserirle in un contesto. Devo anche premettere un'altra cosa per cercare di chiarire la situazione, che la valutazione giurisdizionale di un fatto non è uguale a quella comune, è necessariamente, quindi non è uguale a quella dell'opinione pubblica. Perché? Perché il giudice deve assolvere quando residua un dubbio ragionevole. Sì. Quindi vi possono essere tanti elementi a carico dell'accusa, ma se non viene risolto un dubbio, parliamo di dubbio, attenzione, ragionevole, sì. Che potrebbe diciamo indicare una l'innocenza dell'imputato, in quel caso il giudice deve assolvere. Quindi okay. Sono dei criteri di giudizio completamente diversi. Il giudice ha l'obbligo e il dovere morale di assolvere. Però, però mi scusi, giudice, ci sono alcune cose in questa sentenza sono riportate dai giornali e che ho il dovere di chiederle di chiarire. Sì, no? Allora, dire, no, le dico qua io leggo, no? Allora, la cosa dell'immaturità, la seconda, gesti privi di connotato sessuale. Insomma, se uno allunga le mani su una donna è un po' difficile che sia privo di connotato sessuale, no? Allora, mi ascolti. Innanzitutto, certo, siamo qua per parlare di molestie sessuali. La molestia sessuale in diritto non esiste, nel senso che c'è o la molestia o il reato di violenza sessuale, che nel caso specifico è quello che è stato contestato all'imputato. Le chiarisco subito il suo diciamo dubbio, sì. le sue perplessità. Sì. Allora, innanzitutto non è vero, e questo è fondamentale, che le due signore hanno fatto una denuncia o una querela. Ah. Le due impiegate che hanno subito queste molestie non hanno presentato né querela né denuncia. Ah. Il processo nasce nell'ambito di un'indagine a seguito di una denuncia fatta da una terza persona che lamentava di aver subito degli atti di stalking, mobbing sì. Da parte dell'imputato. Questa quindi, persona è una donna o un uomo? È una donna. Quindi giustamente un'indagine per mobbing si sentono tutte gli altri certo. impiegati dell'ufficio. Certo. Queste due impiegate nel contesto delle informazioni che stavano dando hanno anche detto che il direttore aveva avuto nei loro confronti comportamenti non ortodossi. Allora, mi scusi, giudice, mi permette una cosa, dottor Fasciana. Allora, dato che noi siamo in ritardissimo con i nostri appuntamenti, che è la borsa che dobbiamo fare tra un attimo, lei la possiamo riprendere tra 5 minuti? 5 secchi. Non oltre 5 minuti. Non oltre 5 minuti. Tra 5 minuti ci risentiamo. Via, tra un attimo con la borsa e poi riprendiamo il giudice Fasciana. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'Italia ha dato il suo ok all'accordo sui 3 miliardi alla Turchia, ma ha anche detto vogliamo più flessibilità. Ancora una giornata difficile per i mercati, Milano è arrivata a perdere oltre il 2%. Cambia il paniere dei beni più acquistati, entrano i leggings da bambine, i tatuaggi, i servizi integrati con TV, telefono e internet. Giorni intensi per Roma, un piano di sicurezza simile a quello usato per i capi di Stato, arriva nella capitale la salma di Padre Pio. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, siamo ancora in linea con il giudice Bruno Fasciana. La vicenda, lo ricordiamo ancora agli ascoltatori, è quella che troverete un po' su tutti i giornali, la vicenda di un uomo, un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, accusato di aver molestato due impiegate del suo ufficio, assolto dall'accusa di molestie sessuali con delle motivazioni che hanno fatto discutere, ovviamente non complete, riportate in forma giornalistica. E il giudice Bruno Fasciana è presidente del collegio che ha giudicato commentato su questa vicenda. Abbiamo appreso fino adesso innanzitutto che non partiva dalla denuncia di queste due persone, ma di una terza persona, una donna sempre, che accusava, che ha accusato di mobbing questo dirigente, appunto stavamo parlando con la giudice Fasciana, che ci raccontava tra l'altro che il suo profilo Facebook e quello della giudice che è stato l'estensore di questa sentenza sono in questo momento colpite da un attacco di persone che li insultano. Allora, giudice Fasciana, eravamo rimasti su queste motivazioni che stanno facendo discutere, o almeno parte del testo, no, di questa sentenza che sta facendo discutere, questa immaturità della quale si parla, appunto, che viene citata, e questi palpeggiamenti privi di connotato sessuale. Ci spiega questi due punti? Sì, allora, è fondamentale, oltre sottolineare che le persone offese non hanno presentato né denuncia né querela, soprattutto che la sentenza ha proprio valorizzato nelle sue motivazioni le stesse dichiarazioni delle persone offese. In che senso? Sono state le stesse persone offese a definire gli atti commessi dal direttore come scherzo pesante. Sono state le stesse persone offese che hanno parlato di buffetto sul sedere, non di palpeggiamento. Hanno qualificato il fatto come un fastidio non avente contenuto libidinoso connotazione sessuale. Quindi, in sostanza, mi scusi perché stiamo perdendo. L'immaturo, da cosa nasce? L'immaturo, sono le stesse persone offese che lo dicono, che qualificano immaturo il loro dirigente. Giudice, è come scherzo immaturo, quindi diciamo. Verrebbe sì. Da dire, fa un po' ridere, cosa stiamo parlando? Fa un po' ridere perché l'uomo ha 65 anni, giudice, no? Sì, ha 65 anni, fa ridere, ma il fatto che le persone offese lo stesse lo dichiarano che era uno scherzo immaturo, stiamo perdendo l'audio, giudice Fasciana. Va bene, io intanto la ringrazio perché appunto l'audio lo stiamo perdendo. Intanto voglio salutare Franca Giansoldati, giornalista del Messaggero. Franca, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, ti chiediamo di aiutarci un po' a capire che cosa sta succedendo intorno all'arrivo della salma di Padre Pio. Abbiamo letto che il questore ha messo in piedi un sistema di sicurezza intorno a questa teca, che è lo stesso che si usa per i capi di Stato. Beh, questo è normale. Innanzitutto questo trasferimento è un trasferimento storico. È stato pensato per il giubileo, perché Padre Pio, assieme a un altro santo che si chiama Leopoldo Mandic, sono stati presi da Papa Francesco come simbolo della misericordia, perché esercitavano la misericordia del confessionale. Tu mi stavi chiedendo perché questo dispiegamento di uomini e di energie con una sicurezza così alta, con la teca super blindata, eccetera. Beh, è naturale, è normale, perché sono appunto due simboli, soprattutto Padre Pio è un simbolo mondiale, è il santo forse più pop che c'è al momento, il santo più globale, lo conoscono in Australia, c'è una realtà che forse tanti non conoscono appieno, che è quella dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Immaginatevi una rete di fedeli che si ritrovano, ognuno chiaramente nel proprio posto, ma è una rete mondiale che raggruppa milioni e milioni e milioni di persone. Certo. Senti Franca, ci dai un'idea di come si sta preparando Roma a tutto questo? Perché tutto quello che ci hai raccontato è un racconto interessante, ed è anche, se vogliamo, la premessa per dire l'afflusso di pellegrini nella capitale in questo periodo, di quelli che insomma non vanno a San Giovanni Rotondo perché non hanno i mezzi, perché magari è un po' più difficile da raggiungere, eccetera eccetera, sarà notevole, immagino. come si sta preparando la capitale? Io penso che abbiano strutturato questi giorni in cui rimarrà appunto esposta la teca in modo intelligente, innanzitutto perché arriva a Roma e viene posta a San Lorenzo fuori le mura, cioè vicino al Verano, lì rimane per due giorni e già da oggi pomeriggio è possibile andare in questa chiesa, quindi rimane fuori, diciamo, la zona vaticana. Arriverà in Vaticano solo fra due giorni con una processione, per cui diciamo è tutto sarà un pellegrinaggio per tutti coloro che ci vogliono andare, che è spalmato in sei giorni fino a mercoledì, quindi non è uno di questi eventi come magari eravamo preparati nel 2000, no? Con milioni, viene da dire milioni di persone, perché certo. Qui è una cosa che viene scaglionata. Intenso, come dire, ma non brevissimo, per così dire. Ti ringrazio, grazie a Franca Giansoldati per essere stata con noi, una collega del Messaggero che sta seguendo tutte le vicende e ci ha raggiunto, avete visto, stiamo perdendo la linea prima, di nuovo il giudice Bruno Fasciana che voleva concludere un po' il discorso che ci stava facendo su questa sentenza che sta facendo discutere. Giudice, eccoci qua. Sì, allora io dicevo, probabilmente non si è sentito, sì, che l'aspetto paradossale di questa vicenda è che sono state le stesse persone offese a definire il comportamento, sì, dell'imputato come scherzo pesante, oppure come un fatto non contenente una connotazione libidinosa o sessuale, e che loro stesse hanno qualificato i fatti come scherzo di una persona immatura. Ma non è che magari avevano paura, essendo lui un dirigente e loro, come dire, della sottoposta? No, assolutamente, perché il dirigente era in pensione, per cui non c'era alcun motivo di avere paura, assolutamente. Loro stesse lo qualificano uno scherzo pesante, dopodiché bisogna dire che non può considerarsi un buffetto sul sedere, così hanno dichiarato le persone offese, oppure il toccare il bottoncino della scollatura di una loro come fatto avente una connotazione sessuale. Pensi un po' che la Cassazione, sì, in una sentenza in materia ha confermato l'assoluzione di un imputato che aveva addirittura penetrato con una chiave l'ano della compagna, perché ciò era avvenuto nel corso di una lite e quindi era ravvisabile sulla base degli atti un fine non sessuale, ma una finalità di umiliazione, sì, dell'altra parte. Quindi come dire, lei mi faccia chiudere, abbiamo veramente 5 secondi, quindi si sente tranquillo, insomma, diciamo, non è una buona sentenza, ecco. Certamente, non è ovvio, mi sento tranquillissimo, ho fatto il mio dovere, le ripeto, il mio dovere è quello di non cercare o corrispondere all'opinione pubblica, al consenso dell'opinione pubblica, ma soltanto a applicare la legge, e la legge mi dice che se c'è un dubbio deve assolvere. In questo caso poi diciamo che siamo al di là del dubbio, perché sono le stesse persone offese che hanno detto che non era un atto sessuale. Che non era un atto sessuale. Ultima domanda, sì. Stanno arrivando delle vere e proprie minacce, mi diceva, su Facebook? Allora, stanno arrivando dei messaggi sia alla collega estensore che a me da parte di soggetti che, da parentesi, brevemente, giusto pensare che siano state motivati da commenti fatti sulla stampa, sul giornale della stampa, da soggetti che hanno invitato a compiere atti di stalking nei confronti dei giudici che hanno emesso questa sentenza proprio col mezzo di Facebook. Allora, quindi vediamo un po' che cosa succede. Con questo chiudo, devo veramente ci tengo a dire che quando si criticano le sentenze, soprattutto quando si usa a sproposito un tono ironico e offensivo, Ebbene, cioè un buon giornalista dovrebbe prima leggersi integralmente la motivazione. Solo un sì o no, giudice? Parla di Gramellini? Ce l'ha con Gramellini? No, in generale. Va bene. Ci fermiamo. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.